21. La notte buia. Margaret e suo padre camminavano verso casa. Era una bella serata, le strade pulite, e lei, con il suo abitino di seta bianca tirato su fino alle ginocchia, come quello di raso verde indossato da Lizzie Lindsay nella famosa ballata, aveva lasciato il ricevimento insieme al padre, così euforica per la freschezza dell'aria notturna che quasi si metteva a danzare. Sono piuttosto convinto che Thornton non sia del tutto tranquillo riguardo allo sciopero. Stasera mi è sembrato molto preoccupato. Mi stupirei se non lo fosse. Ma con gli altri è stato impassibile, come al solito, mentre parlava con loro e ascoltava i vari consigli un attimo prima che ce ne andassimo. Lo stesso ha fatto anche dopo cena. Ce ne vuole per turbare la sua freddezza nel parlare, ma dalla faccia ho avuto l'impressione che fosse preoccupato. Beh, io lo sarei se fossi in lui. Che sappia della rabbia crescente o dell'incontenibile odio dei suoi operai, che lo giudicano tutti un uomo severo, come dice la Bibbia, non tanto ingiusto quanto insensibile. Il suo giudizio è inequivocabile, difende i suoi diritti, come nessun essere umano che tenga conto di cosa siamo noi e di che cosa sono i nostri umili diritti di fronte all'Onnipotente dovrebbe fare. Mi fa piacere che tu dica che sembra preoccupato. Se ripenso alle parole e ai modi quasi folli di Boucher, non riesco a sopportare il pensiero di quell'indifferenza con cui il signor Thornton si esprime. In primo luogo, non sono convinto come te dell'estremo bisogno di quel Boucher. In quel momento era messo male, non ne dubito, ma questi sindacati hanno sempre una misteriosa disponibilità di denaro e da quello che hai detto, evidentemente quest'uomo ha un carattere ardente e impulsivo e ha dato sfogo apertamente ai suoi sentimenti. Oh, papà. Beh, voglio solo che tu sia giusta con il signor Thornton, che a parer mio ha un carattere esattamente opposto e un uomo fin troppo orgoglioso per far mostra delle sue passioni. Proprio il carattere che un tempo pensavo che avresti apprezzato, Margaret. Infatti, lo apprezzo. Dovrei apprezzarlo. Ma non sono così sicura come te dell'esistenza di quei sentimenti. È un uomo dal carattere forte, sì, e di un'intelligenza straordinaria, sì. Tenendo conto dei pochi vantaggi che ha avuto, non così pochi. Ha condotto una vita molto concreta fin dalla tenera età e ha dovuto imparare a usare giudizio e autocontrollo. Tutto ciò sviluppa una sola parte di intelletto. Ha sicuramente bisogno di un po' di quel sapere antico che mette a disposizione i veri fondamenti per far congetture sul futuro. Comunque, riconosce questo bisogno, lo percepisce e questo è già qualcosa. Sei troppo prevenuta nei confronti del signor Thornton, Margaret. È il primo industriale, la prima persona che si occupa di commercio che ho avuto l'opportunità di osservare, papà. È come se lui fosse la prima oliva che assaggio. Permettimi di fare una certa smorfia mentre la mando giù. Lo so che nella sua categoria è una persona buona e col tempo mi piacerà la sua categoria. Ho l'impressione che finirà per piacermi. Mi interessava molto quello di cui parlavano i signori, sebbene non capissi che la metà dei loro discorsi, e mi è molto dispiaciuto quando la signorina Thornton è venuta a prendermi per portarmi dall'altra parte della stanza, dicendo che sicuramente mi sarei sentita a disagio a essere l'unica donna in mezzo a così tanti uomini. Io non ci avevo pensato neanche per un attimo, intenta com'ero ad ascoltare, e le signore erano così noiose, papà, oh, così noiose. Ma è stato anche molto curioso. Mi è tornato in mente il nostro vecchio gioco di inserire un certo numero di parole in una frase. A quale gioco ti riferisci, piccola mia? Domandò Hale. E dunque sceglievano parole che simboleggiavano la loro ricchezza: governanti, giardinieri, cristalli, merletti pregiati, diamanti e cose del genere. E ogni signora formava il suo discorso in modo tale da mettercele dentro tutte. E il più accidentalmente possibile. Anche tu sarai orgogliosa della tua unica domestica quando l'avrai, se è tutto vero quello che dice di lei la signora Thornton. Lo sarò, di certo. Mi sono sentita una grande ipocrita stasera, lì seduta con il mio vestitino di seta bianco, mentre mi guardavo le mani a riposo e ripensavo a tutti i lavori di casa che avevano fatto così accuratamente quel giorno. Sono sicura che mi hanno presa per una signora distinta. Beh, hai confuso persino me, tanto che ho pensato sembrassi proprio una signora, mia cara, disse il signor Hale sorridendo serenamente. Ma i sorrisi Si mutarono in tramortite e incredule espressioni di terrore appena videro il volto di Dixon mentre apriva la porta di casa. Oh, padrone! Oh, signorina Margaret! Grazie al cielo siete tornati! C'è qui il dottor Donaldson. È andata a chiamarlo la domestica dei vicini perché la donna delle pulizie è andata a casa. Sta meglio adesso, ma oh, signore! Un'ora fa pensavo che sarebbe morta! Il signor Hale afferrò il braccio di Margaret per non cadere, la guardò e colse un'espressione di sorpresa e di estremo dolore, ma non quel terrore pieno di angoscia che stringeva invece in una morsa il suo cuore impreparato. Lei ne sapeva più di lui, eppure ascoltava mostrando una disperata espressione di preoccupazione e sgomento. Oh, non avrei dovuto lasciarla. Che figlia ingrata che sono! Si lamentò Margaret mentre sosteneva il padre che, tremando, saliva al piano di sopra con passo svelto. Il dottor Donaldson li aspettava sul pianerottolo. Sta meglio ora, bisbigliò. Il sedativo ha fatto effetto, gli spasmi sono stati molto forti. Non mi meraviglio che la vostra cameriera si sia spaventata, ma si riprenderà per questa volta. Questa volta? Fatemi andare da lei. Mezz'ora prima il signor Hale era un uomo di mezza età. Ora aveva la vista offuscata e non si reggeva bene in piedi, barcollava come se avesse avuto 70 anni. Il dottor Donaldson lo prese per un braccio e lo accompagnò in camera da letto. Margaret li seguì, sua madre era lì, distesa, e l'espressione sul suo volto non lasciava adito a dubbi. Magari poteva stare meglio in quel momento. Dormiva. Ma la morte l'aveva già segnata ed era chiaro che di lì a poco sarebbe tornata a prendersela. Il signor Hale rimase per un po' a guardarla senza parlare, poi iniziò a tremare tutto e svincolandosi dalle premurose attenzioni del dottor Donaldson, con le mani cercò la porta. Non riusciva a vederla, sebbene le fiamme di numerose candele portate dentro nel momento di panico stessero brillando intensamente. Barcollò fino al salotto e cercò a tentoni una sedia. Il dottor Donaldson gliene avvicinò una e lo fece sedere, gli sentì il polso. Parlategli, signorina Hale, dobbiamo farlo riprendere. Papà, disse Margaret con voce rotta dal pianto. Papà, parlami. Il presentimento tornò di nuovo negli occhi del signor Hale e fece un grande sforzo. Margaret, tu lo sapevi? Oh, è stato crudele da parte tua. No, signore, non è stato crudele, replicò prontamente il dottor Donaldson. La signorina Hale ha agito seguendo le mie istruzioni. Forse può aver sbagliato, ma non è stato crudele. Vostra moglie sarà un'altra domani, sono fiducioso. Ha avuto delle fitte, come mi aspettavo. Anche se non ho parlato alla signorina Hale dei miei timori, ha preso il sedativo che ho portato con me, si farà una bella dormita e domani quell'aspetto che vi ha tanto allarmato sarà sparito. Ma non la malattia. Il dottor Donaldson lanciò un'occhiata a Margaret. Il suo capochino, il volto che si sollevava senza chiedere alcun rinvio temporaneo, mostrarono a quell'acuto osservatore della natura umana che riteneva giusto che dicesse tutta la verità. La malattia, no, non possiamo fare nulla per la malattia, nonostante la nostra povera decantata competenza. Possiamo soltanto ritardarne il progresso, alleviare il dolore che provoca. Siate uomo, signore, siate un cristiano. Abbiate fede nell'immortalità dell'anima, che nessun dolore, nessuna malattia mortale può toccare o aggredire. Tuttavia, come risposta, non ottenne altro che parole strozzate. Non siete mai stato sposato, dottor Donaldson, non sapete cosa significhi. Mentre cupi e virili singhiozzi attraversarono il silenzio della notte, come violenti battiti di angoscia. Margaret si inginocchiò accanto a lui, accarezzandolo tra le lacrime. Nessuno, neanche il dottor Donaldson, si rendeva conto del tempo che passava. Il signor Hale ebbe il coraggio di parlare per primo delle necessità immediate. Che cosa dobbiamo fare? Domandò. Ditelo entrambi, Margaret è il mio sostegno, il mio braccio destro. Il dottor Donaldson diede le sue istruzioni, chiare e pratiche. Nessun timore per quella notte, sì, potevano stare tranquilli anche il giorno dopo e per molti giorni ancora, ma non c'era nessuna speranza di guarigione. Consigliò al signor Hale di mettersi a letto e di lasciare soltanto una persona a vegliare il sonno della signora Hale, che sperava fosse indisturbato, Promise di ritornare l'indomani mattina presto e con una stretta di mano calda e cordiale si congedò. Non si dissero che poche parole. Erano così stremate da quella paura che riuscirono a pensare soltanto alle cose da fare nell'immediato. Il signor Hale era deciso a restare alzato tutta la notte e Margaret non riuscì a fare altro che convincerlo a dormire sul divano del salotto. Schietta e risoluta, Dixon si rifiutò di andare a dormire. E quanto a Margaret era praticamente impossibile che lasciasse sua madre, e tutti i dottori del mondo potevano anche dire di economizzare le risorse e che bastava uno ad assisterla. Così Dixon se ne stava seduta con lo sguardo fisso e gli occhi che le si chiudevano, si accasciava e si tirava su di scatto e alla fine si arrese e si mise a russare sonoramente. Margaret si era tolta il vestito, l'aveva buttato da una parte con una sorta di insofferente disgusto e aveva quindi indossato la vestaglia. Credeva che non sarebbe mai più riuscita a dormire, come se tutti i sensi fossero estremamente vigili e doppiamente predisposti alla veglia. Qualsiasi cosa vedesse, qualsiasi suono, persino qualsiasi pensiero, le toccavano nel vivo qualche nervo. Per più di 2 ore sentì il movimento agitato di suo padre nella stanza accanto. Continuava a venire sulla porta della camera della madre, fermandosi lì ad ascoltare finché lei, senza accorgersi della sua invisibile presenza, non andò ad aprire la porta per dirgli come stavano andando le cose, per rispondere alle domande che le sue labbra inaridite non potevano certo formulare. Alla fine anche lui si addormentò e un profondo silenzio regnò in tutta la casa. Margaret si sedette dietro la tenda assorta nei suoi pensieri. Lontane nel tempo, lontane nello spazio, sembravano tutte le occupazioni dei giorni precedenti. Meno di 36 ore prima si prendeva cura di Bessie Higgins e di suo padre e le si stringeva il cuore per Boucher. Adesso tutto ciò era come il ricordo sfocato di una vita precedente. Qualsiasi cosa fosse successa fuori dalle mura domestiche, le sembrava che non avesse nulla a che fare con sua madre e fosse pertanto irreale. Persino Harley Street sembrava distante. A quel punto ricordò, come fosse il giorno prima, quanto le piacesse cercare i lineamenti della madre sul viso della zia Shaw e quanto le lettere che aveva ricevuto l'avessero fatta pensare a casa sua con intensa nostalgia. Helston, anch'essa apparteneva a un passato lontano. Le giornate grigie e uggiose dell'inverno e della primavera precedenti, così monotone e tranquille, sembravano più vicine a ciò che per lei ora aveva un'inestimabile importanza. Lo avrebbe volentieri trattenuto per la veste quel passato che si allontanava, pregandolo di ritornare e di darle indietro ciò a cui non aveva dato abbastanza valore un tempo. Che spettacolo! Vano sembrava la vita, così privo di sostanza, evanescente, sfuggente. Era come se in cima al campanile, lassù, sopra il rumoroso trambusto della terra, ci fosse una campana che batteva a morto senza sosta. Siamo tutti ombre, siamo tutti di passaggio, tutto è passato. E quando spuntò l'alba, fredda e grigia, come quella di tante altre mattine prima di allora, osservando uno per uno tutti coloro che dormivano, era come se quell'orribile notte fosse stata irreale, come un sogno. Anch'essa era un'ombra. Anch'essa era passata. Quando si svegliò, la signora Hale non si rendeva conto di quanto fosse stata male la notte prima. Fu piuttosto sorpresa della visita così mattiniera del dottor Donaldson e perplessa per le facce preoccupate del marito e della figlia. Acconsentì a rimanere a letto per quel giorno, ammettendo di essere stanca, ma insistette per alzarsi il giorno successivo e il dottor Donaldson le diede il permesso di ritornare in salotto. Era irrequieta e scomoda in qualsiasi posizione e prima di sera le venne la febbre molto alta. Il signor Hale era completamente esausto, incapace di prendere qualsiasi decisione. Che cosa possiamo fare per evitare alla mamma un'altra notte come questa? Chiese Margaret il terzo giorno. Si tratta in parte dell'effetto dei forti sedativi che sono stato costretto a usare. È più penoso per voi da vedere che per lei da sopportare, credo. Tuttavia, penso che se riuscissimo a procurarle un letto ad acqua, le farebbe bene. Non c'è dubbio che starà meglio domani, quasi come era prima di questo attacco. Tuttavia, Mi farebbe piacere se avesse un letto d'acqua. So che la signora Thornton ne possiede uno. Proverò a passare da lei questo pomeriggio. Aspettate, disse, intravedendo il volto di Margaret che la veglia nella stanza della malata aveva reso estremamente pallido. No, non sono sicuro di poterci andare. Devo fare un lungo giro. Non vi farebbe male fare una bella camminata rinvigorente fino a Marlborough Street per chiedere alla signora Thornton di prestarvelo? Certo, disse Margaret. Potrei andarci questo pomeriggio mentre la mamma è a riposare. Sono sicura che la signora Thornton ce lo darà. Dall'alto della sua esperienza, il dottor Donaldson aveva visto bene. La signora Hale sembrò liberarsi dei postumi del suo attacco e quel pomeriggio il suo aspetto era più luminoso di quanto Margaret avesse sperato. Dopo pranzo, la figlia la lasciò seduta sulla sua comoda poltrona, con una mano sopra quella del marito, che sembrava ben più provato e sofferente di lei. Eppure ora lui riusciva ad accennare un sorriso alquanto esitante e smorzato, è vero, ma pochi giorni prima Margaret non avrebbe mai pensato di vederlo sorridere di nuovo. Quasi 2 miglia separavano la loro casa in Crampton Crescent da Marlborough Street. Faceva troppo caldo per camminare con passo sostenuto. Alle 3 del pomeriggio il sole di agosto batteva dritto sulla strada. Margaret camminava senza notare nulla di tanto diverso dal solito nel primo miglio e mezzo del suo percorso. Era assorta nei suoi pensieri e aveva ormai imparato a farsi strada nell'irregolare flusso di persone che scorreva per le vie di Milton. Tuttavia, man mano che procedeva, fu colpita da un insolito movimento tra la massa di gente che andava su e giù per la strada affollata in cui lei si stava immettendo. Parevano non andare avanti, piuttosto stavano a chiacchierare, ascoltavano ed erano tutti eccitati, senza spostarsi più di tanto dal punto in cui per caso venivano a trovarsi. Eppure, mentre si facevano da parte per farla passare, lei, tutta presa dal motivo di quella commissione e dalle necessità che l'avevano richiesta, si guardava attorno con meno attenzione di quanto avrebbe fatto con la mente libera da pensieri. Dopo un po' che era entrata in Marlborough Street, si impossessò di lei la netta convinzione che in giro tra la gente ci fosse un intenso nervosismo, un'aria di tempesta sia morale che fisica intorno a lei. Da ogni stretta viuzza che confluiva lì saliva un profondo e lontano ruggito come di miriadi di voci estremamente rabbiose e indignate. Gli abitanti di ogni misera e squallida abitazione erano raggruppati attorno alle porte e alle finestre. Se non in verità in piedi nel bel mezzo delle strette stradine, tutti con gli sguardi fissi verso un unico punto. Era proprio su Marlborough Street che puntavano tutti quegli occhi, rivelando la più intensa e varia partecipazione. Alcuni erano in preda alla collera più rabbiosa, altri si abbassavano a incontenibili minacce, altri ancora erano terrorizzati o pregavano intensamente. Quando raggiunse la piccola entrata laterale accanto ai cancelli scorrevoli nel grande muro cieco del cortile di Marlborough Mill, nell'attesa che il custode le aprisse, Margaret si guardò attorno e udì in lontananza il primo lontano rombo della tempesta. Vide la prima ondata, lenta e impetuosa, della folla scura avanzare con le sue creste minacciose che si infrangevano e si ritraevano in fondo a quella strada che un attimo prima sembrava così soffocata dal rumore, ma in cui ora regnava un silenzio sinistro. Tutti questi elementi catturarono la sua attenzione, senza tuttavia insinuarsi nel suo cuore già preoccupato. Non sapeva che cosa volessero dire, quale fosse il loro significato recondito, mentre la conosceva bene e la sentiva la pressione del coltello affilato e tagliente che l'avrebbe presto pugnalata fino all'osso, lasciandola orfana di madre. Stava cercando di rendersene conto affinché, giunta l'ora, potesse essere preparata a confortare il padre. Il custode aprì la porta con cautela, non abbastanza da permetterle di entrare. «Ah, signorina, siete voi!» disse, tirando un sospiro di sollievo e aprendola un po' di più, ma non del tutto. Margaret entrò, lui la richiuse frettolosamente dietro di lei. «Suppongo che la folla si stia dirigendo tutta qui, vero?» chiese lui. Non lo so, pare stia per succedere qualcosa di strano, ma questa strada mi sembra piuttosto vuota. Attraversò il cortile e salì le scale fino alla porta di casa. Lì non si sentiva nessun rumore, nessun motore a vapore in funzione. al ritmo di colpi e sbuffi, nessun ticchettio di macchine né svariate voci distinte che si intersecano e si sovrappongono, ma in lontananza soltanto il ruggito minaccioso della folla che, riunita, protestava a gran voce. 22. Un colpo e le sue conseguenze. Margaret venne accompagnata in salotto. I rivestimenti e le coperture erano tornati al loro posto, le finestre erano aperte per metà a causa del caldo e le veneziane coprivano i vetri, cosicché una luce tetra e grigia che il pavimento rifletteva dal basso mal proiettava tutte le ombre e, fondendosi con la luce lievemente verdastra che proveniva dall'alto, faceva sembrare anche il volto di Margaret spettrale e smunto, come vide di sfuggita nello specchio. Si sedette e aspettò. Non arrivava nessuno. Di tanto in tanto il vento sembrava portare il lontano rumore di una folla enorme che si avvicinava, eppure il vento non c'era. A intervalli il rumore svaniva in un profondo silenzio. Finalmente entrò Fanny. Mia madre arriverà subito, signorina Hale. Mi ha pregato di porgervi le sue scuse. Forse sapete che mio fratello ha importato manodopera dall'Irlanda e questo ha infastidito moltissimo gli uomini di Milton. Come se non avesse alcun diritto di prendere operai ovunque li trovi. Queste stupide canaglie qui non volevano lavorare per lui e ora con le loro minacce hanno spaventato così tanto quei poveri irlandesi affamati che non abbiamo il coraggio di farli uscire. Potete vederli tutti ammucchiati in quella stanza all'ultimo piano della fabbrica. Devono dormire lì per essere al sicuro da quelle bestie che non vogliono lavorare e che non lasciano lavorare neppure gli altri. Mentre la mamma si sta occupando del cibo, John sta parlando con loro, visto che alcune donne piangono perché vogliono tornare a casa. Ah, ecco la mamma. La signora Thornton entrò con una rabbia nera sul volto che fece capire a Margaret di essere venuta a disturbarla con quella sua richiesta in un momento inopportuno. Comunque, stava assecondando il desiderio della signora Thornton, che aveva espressamente detto loro di rivolgersi a lei per qualsiasi cosa di cui avessero avuto bisogno per la madre malata. Il sopracciglio della signora Thornton si contrasse e la sua bocca divenne sempre più rigida, mentre Margaret parlava in modo semplice e gentile dell'irrequietezza di sua madre e della speranza del dottor Donaldson che potesse trovare sollievo in un letto ad acqua. Smise di parlare. La signora Thornton non rispose subito, dopodiché ebbe un sussulto ed esclamò: «Sono ai cancelli, Fanny! Vai a chiamare John, che venga via dalla fabbrica! Sono ai cancelli! Li sfonderanno! Chiama John! Ho detto!» E contemporaneamente quell'adunata di vagabondi a cui stava prestando ascolto invece di seguire le parole di Margaret la si udì proprio dall'altra parte del muro. Un frastuono crescente di voci arrabbiate inveiva dietro la barriera di legno che traballava come se quell'invisibile folla impazzita usasse i propri corpi come arieti e indietreggiasse appena per poi avventarsi contro di essa con un attacco ancora più compatto e deciso, finché l'assalto non fece tremare la massiccia cancellata come canne agitate dal vento. Le donne si ammassarono alle finestre, attratte da quella vista terrificante. La signora Thornton, le domestiche, Margaret erano tutte lì. Fanny era tornata e mentre saliva le scale urlava ad ogni gradino come se qualcuno la stesse rincorrendo, per buttarsi poi sul divano in un pianto isterico. La signora Thornton aspettava con ansia suo figlio che era ancora in fabbrica. Lui uscì, guardò in alto verso di loro un gruppo di visi sbiancati e fece loro un sorriso incoraggiante prima di sprangare la porta della fabbrica. Poi chiamò una delle donne perché scendesse ad aprirgli la porta che Fanny aveva richiuso in fretta dietro di sé nella sua pazza fuga. Ci andò la signora Thornton in persona. Il suono di quella voce, conosciuta e autoritaria, sembrò essere come l'odore del sangue per quella folla inferocita lì fuori. Fino ad allora erano stati zitti, muti, poiché occorreva loro tutto il fiato che avevano per gli estenuanti sforzi necessari a buttare giù i cancelli, ma ora, sentendolo parlare dall'interno, si misero a protestare con una tale sovrumana ferocia che persino la signora Thornton impallidì per la paura, mentre lo precedeva nella stanza. Lui entrò con il viso lievemente arrossato, ma con gli occhi che luccicavano come per rispondere allo squillo di tromba del pericolo e con una fiera espressione di sfida che lo faceva apparire un uomo distinto se non avvenente. Margaret aveva sempre temuto che non avrebbe avuto abbastanza coraggio, se si fosse presentata un'emergenza, dimostrando in tal modo di essere quel che temeva, una codarda. Ma al centro di quell'inaudito spettacolo di terrore, in cui ogni paura era legittima, si dimenticò di se stessa e provò soltanto un'intensa partecipazione, così intensa da farle male, a quello che stava accadendo.